L'autista dell'ATAC di Roma, l'abbiamo già sentita da questi microfoni. Allora, ci sei? Pronto? Sì, benissimo. Mi sento bene. Allora, con te intanto, in attesa di collegarci con Genova, dove c'è in corso l'assemblea per decidere sulla proposta di accordo arrivata questa notte, ti chiediamo intanto, è uscita sulla stampa la notizia di una delegazione di lavoratori dell'ATAC di Roma che si è recata a Genova per portare solidarietà. Ma tu hai qualcosa sì, da dire? Sì, io però farei una distinzione, nel senso che per questo ne so io, sono saliti dei sindacati, dei sindacalisti, i lavoratori saliranno nel martedì 26, vediamo come sarà il proseguo di questa situazione. Noi vogliamo portare assolutamente il nostro sostegno ai genovesi, perché si stanno comportando in una maniera impeccabile. Sino ad oggi loro hanno avuto l'appoggio dei sindacati, mentre noi siamo assolutamente distaccati dal sindacato, perché non ci piacciono, non ci rappresentano, quindi sono andati su a Genova di loro iniziativa, noi siamo un'altra storia in questo momento. D'accordo, allora ci puoi dire intanto qual è il clima che si respira a Roma tra lavoratori e lavoratrici dell'ATAC rispetto a questa mobilitazione che tu definivi appunto giustamente impeccabile a Genova? Allora, diciamo che la situazione è proprio diversa, noi dobbiamo ricordare che comunque a Genova sono molti di meno, la città è molto più piccola, però sono stati grandiosi, molto uniti, molto compatti, e hanno avuto dalla loro i sindacati. Anche a Genova il sindacato deve riacquistare la credibilità che ha perduto in tutti questi anni. Qui da noi non siamo appoggiati da niente e da nessuno, stiamo facendo un'associazione per avere uno studio legale che ci tuteli. Faremo di nuovo la nostra protesta in maniera ancora legale, cioè noi, se non otterremo le cose che chiediamo, ossia le 1000 assunzioni sul personale viaggiante, immediatamente i 115 interinali già formati e gli altri 885 potranno prenderli dove vogliono, non nell'amministrativo con un concorso esterno. Noi abbiamo bisogno di 1000 assunzioni, di vetture nuove anche in periferia e di tutti i soldi che ci devono, dagli arretrati allo scatto dei parametri bloccato, alla terza tranche dell'ERG che non si sa che fine abbia fatto. Noi nella settimana che precederà le vacanze di Natale bloccheremo Roma in una maniera assolutamente legale, ossia garantendo solo il lavoro ordinario e rispettando alla lettera il codice della strada, cosa che in una città come Roma non è possibile fare. Per esempio, doppia striscia continua in quella settimana non verrà superata. Se non otterremo un colloquio con il sindaco Maria, se non otterremo quello che chiediamo, vediamo poi come ragionare nelle prossime settimane. Sicuramente quella di Genova è un esempio da seguire, noi non sappiamo quello che faremo, ma siamo assolutamente sul piede di guerra e non ci fermeremo se non otterremo quello che vogliamo. Vengono anche soprattutto. Volevo chiederti, Michela, da Genova vengono anche sollecitazioni proprio a Roma, in quanto insomma l'ATAC è numerosissima, c'ha un peso grosso nel trasporto pubblico nazionale. Assolutamente, noi siamo tantissimi, siamo tutti lavoratori. Io personalmente sarei voluto andare prima a Genova, però logicamente io non mi muovo da sola, io mi muovo con un grande gruppo. No, ma questo il grande gruppo, sì. Questo è comprensibilissimo, no? La domanda che ti volevo fare è questa: non c'è il rischio magari diciamo che se voi non partite prima la lotta di Genova se non altro per fame, per difficoltà, si esaurisce, insomma, cioè questi... Purtroppo è un rischio, io con tutti i ragazzi che partiranno con me, noi prenderemo il treno della mattina di martedì, andremo in parecchi su martedì, io sono a contatto diretto quotidiano, notturno, di giorno, sia con Luca Bruccio che con tutti, scusate che sto a Piazza Venezia, sia con tutti gli altri che stanno facendo questa protesta grandiosa. Purtroppo è un rischio anche questo. Io, se loro sono assolutamente fortissimi, spero che non cedano fino a che non otterranno quello che vogliono, perché sembra che i sindacati vogliono vogliano, come al solito, negoziare, ossia si accontentano delle briciole di una non privatizzazione solamente per i prossimi 12 mesi, mentre qui dobbiamo assolutamente impedire che quello che hanno fatto a Firenze avvenga in tutta la penisola. Certo. Noi siamo tantissimi, loro propongono la privatizzazione e noi vogliamo rispondere con un movimento nazionale. Certo, questo è credo sia proprio questo l'obiettivo, non dico principale, ma insomma quello che darebbe una completezza di agitazione a tutto il settore. E qui ci sono molti aspetti. Totalmente, purtroppo anche qui ci sono delle cose, noi siamo nati da troppo poco, siamo troppo piccoli, cioè siamo troppo piccoli di età, come dire, però assolutamente martedì ci siamo organizzati per salire sperando che loro riescano a reggere, loro sanno che noi arriveremo martedì e faranno di tutto per reggere. Benissimo, questo già mi sembra una cosa, perché insomma l'avrete capito, sarete pressati anche dagli organi di informazione su questa vertenza complessiva del trasporto pubblico, si vanno accentrando proprio attenzioni particolari, direi quasi morbose, no? Chi vi tira da una parte, chi vi tira dall'altra, tutti molto impauriti di quello che potrebbe succedere, non solo sul piano della mobilità cittadina, insomma il blocco delle città, ma come effetto di trascinamento per tante altre categorie di lavoratori, insomma, che oggi soffrono. Io spero che il nostro movimento faccia tendenza, non deve fare notizia. Certo. Con la scusa che il paese è in difficoltà, con la scusa che non ci sono soldi, stanno calpestando tutti i lavoratori di ogni tipo di categoria. Questa cosa non è assolutamente possibile, quindi io mi auguro che questa forma di protesta che è partita da Roma e che si sta espandendo in tutta Italia non rimanga limitata ai trasporti, ma assolutamente anche a tutte le altre municipalizzate, a tutti gli altri lavoratori, che non meritano questo tipo di trattamento da parte di nessuno, insomma. Gli utenti, sicuramente io ho visto una cosa spropositata in televisione, una cosa orrenda, cioè Liguori che dovrebbe fare la parte del lavoratore, Liguori che invece faceva lì il signorotto che andava a difendere il cittadino. Noi con questo movimento stiamo difendendo i cittadini, non andiamo contro i cittadini, siamo assolutamente dalla parte degli utenti, che certo devono avere pazienza. A Genova tanti ci lamentano che devono andare a piedi, per carità, ma devono sapere che se i genovesi si sono messi in questa condizione è per impedire che venga privatizzata la MT, e che di conseguenza, perché il privato pensa solamente al guadagno, non pensa alla qualità del servizio, che quindi anche il cittadino avrà dalla sua parte, diciamo, delle cose positive se le aziende non vengono privatizzate. Quindi assolutamente noi siamo con i cittadini e non facciamo queste proteste così pesanti, Genova docet su tutti, per il male del cittadino, ma al contrario per il suo bene. Benissimo, io intanto ti ringraziamo e invitiamo chi è in ascolto, come te, immagino anche tanti altri lavoratori e lavoratrici dell'ADAC, magari di rimanere in ascolto, perché fra pochi minuti noi chiameremo appunto Genova, lì l'assemblea, per avere notizie. Certo. Immediate, insomma, almeno una prima valutazione di come la stanno valutando i lavoratori questa ipotesi di accordo. Sì, io da quello che ho sentito io non gli piace. Non gli piace, sì, ma è comprensibile, perché insomma questo è un gioco classico dei sindacati di categoria, insomma, no? I vertici nazionali non si espongono, mandano avanti le strutture locali perché sono più tollerate, diciamo così, dai lavoratori, e li mandano avanti a fare questi accordi, che sono sempre accordi, come dici tu, tampone, cioè che non risolvono, prendono tempo. Assolutamente, mentre qui, guardi, qui è proprio il contesto storico che è particolare, forse non si verificherà più, quindi noi dobbiamo sfruttare questo contesto storico per fare una rivoluzione vera. Noi vogliamo riprenderci i nostri diritti senza chiedere niente in più di quello che è nostro. Benissimo, va bene, grazie Micaela. Va bene, se volete mi potete ricontattare in qualsiasi momento voi abbiate bisogno. Grazie, ciao. Arrivederci, ciao, buon ciao. Lavoro. Arrivederci. Anche a te, ciao. Siamo tutti qui sull'autobus, seduti ed assonnati,